Estatico Falco. Il gran capo Estatico Falco in un'imboscata finì nel talco. Tra bianche piume e candide frecce, nere rimasero soltanto le trecce. Nel suo sogno di pallido viso, bianca era l'ombra, rosso il sorriso. Nel cielo smunto, nel prato ispirato, ecco una nuvola bianca di fiato. Se il bianco segnale poi sparirà, rimarrà un talco di gran qualità. La magica polvere che tutti sentiamo, suoni, profumi di un dolce tam-tam.